9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise. Into your eyes again. Buongiorno cari ascoltatori, da Oscar Giannino, il vostro fedele, insomma fedele ai limiti del possibile visto che la pensate molto diversamente, Gattaccio oggi dedica la sua puntata a una specie di risposta ideale all'editoriale che trovate in prima pagina oggi sul Corriere della Sera, che si chiede scandalizzato dove sono gli imprenditori. Se lo chiede Sergio Rizzo, e lo stimolo, lo spunto è quello della vicenda della Ducati. La Ducati è una grande casa motociclistica, che ci ha fatto tornare negli ultimi anni grande nel MotoGP, e per carità una grande storia di impresa assolutamente, dai fratelli Castiglioni alla Cagiva, che va all'Audi. L'Audi ha fatto il brand di lusso del marco della Volkswagen, come sapete, la Volkswagen che ha raddoppiato gli utili nel 2011, sono utili di quasi 16 miliardi di euro, e che per questo ha quasi raddoppiato anche i suoi premi ai suoi 90.000 lavoratori tedeschi, portandolo a 7.500 euro. Lo stupore di Sergio Rizzo è come arrivano i tedeschi a fare l'offerta alla Ducati e gli italiani cosa fanno? Io trovo la domanda un po' malposta, nel senso che il mondo è globalizzato, siamo europei. Comunque, in ogni caso, siccome è fondata la domanda sul fatto che il capitalismo, i grandi gruppi italiani, i gruppi che sono dimensionalmente troppo poco forti, poco patrimonializzati, hanno dei difetti, i difetti non sono nello Stato, ci è venuto in mente di dare una risposta con l'ospite che avremo con noi e che sottoporremo anche alle vostre domande. Chiamate all'800240024 e mandate sms al 349-238-6666, poiché molti tra voi lavorano tra l'altro utilizzando automobili, spostandosi, perché quella è una fascia importante del nostro pubblico. L'amministratore delegato di Autostrade sarà con noi, Giovanni Castellucci. Perché Autostrade? Perché Autostrade è l'espressione dal punto di vista della proprietà di un grande gruppo italiano, Atlantia, quindi Benetton, è un grande gruppo, quello che investe di più nel pubblico da privati nel nostro paese, e in più cresce anche molto all'estero, in Sud America, malgrado che sia stata la politica italiana, tanto per cambiare, alcuni anni fa, ai tempi del governo Prodi, ad avergli detto no a una crescita che avrebbe portato al primo grande gruppo europeo. Si parlava all'epoca della fusione di Atlantia con Abertis, gli spagnoli, e quindi con una forte presenza in Sud America. Eppure crescono, malgrado tutto, anche loro, per i fatti loro, malgrado i no della politica. Ma detto tutto questo, il problema è che lo abbiamo chiamato qui per farci dire se vale la pena restare in Italia o andarsene, come fanno altri grandi gruppi. Lo abbiamo parlato l'intera settimana scorsa con British Gas che se ne va da Brindisi, con Veolia che se ne va dalla Calabria, con Unión Fenosa Spagnola che se ne va da Trieste. Allora, questo è l'argomento della giornata. Prima di questo, alcuni brevissimi flash. Perché io devo una ola. Devo una ola da curva, devo un sostegno assoluto. Lo so che da Radio 24 avete sentito cose diverse ieri, il mio carissimo amico Sebastiano Barisoni ha polemizzato contro di lui, al mio ex professore di diritto costituzionale, diedi con lui il mio primo esame all'università, il mio primo 30, il professor Pizzetti, garante della privacy, che dopo 7 anni, ieri a conclusione del suo incarico e dopo molte volte aver sollevato questo tema, ieri ha puntato il suo dito contro lo Stato, che in nome della lotta all'evasione, sacrosanta, ma è diventato un mantra, senza tagli della spesa e senza abbattimenti del debito pubblico con concessione di patrimonio dello Stato, ha detto Pizzetti, la verità è che il diritto alla privacy del cittadino contribuente, in nome della lotta all'evasione, lo Stato se lo è messo sotto i piedi e oramai siamo a rischio dello Stato di diritto, siamo a rischio nel quale lo Stato incardina nella testa del contribuente l'idea di essere un suddito, non un cittadino, un suddito, come fanno i sistemi totalitari. Non uno Stato di diritto. Io apprezzo fortissimamente le parole del mio professor Pizzetti e sono grato che esistano galantuomini, professore di diritto costituzionale, imbevuti di una dottrina che è quella liberal cristiana, perché lo conosco bene il professor Pizzetti, che non si tirano indietro e hanno il coraggio di dire allo Stato, sia quando abbia governato il centro-sinistra, sia il centro-destra con Tremonti, ma anche adesso con Monti, che certo non è responsabile di come ha trovato il paese, sta facendo il possibile. Ma sta facendo il possibile come? Semplicemente strizzando ulteriormente la vita fiscale, senza cessioni pubbliche, senza tagli di spesa energici che ci aspettavamo, in cambio anche di diminuzioni fiscali senza di cui il paese non respira, non ha ossigeno, non cresce e si schianta oltretutto con questa odiosa campagna di guerra sociale, di divisione continua nella quale gli autonomi, le imprese, chiunque scommette su se stesso, chiunque non è un dipendente, ha sostituto l'imposta e quindi con lo Stato che gli piglia dalla tasca senza poter niente, diventa automaticamente colui il quale è il nemico del patto sociale, è l'evasore, è l'odioso anarca, è quello che vuole praticare la via di fregare gli altri. E quindi siamo diventati l'unico paese al mondo, l'unico paese al mondo nel quale si assumono norme come quelle del totale trasferimento a banche pubbliche dati di ogni singolo movimento bancario. Voi dite no, c'è anche in America. Non è vero che c'è anche in America. In America no, non c'è l'accesso a qualunque movimento bancario di qualunque cittadino americano da ogni sede comunale come è da noi. Io devo dire, sono grato a Pizzetti che ha tentato di diminuire il numero di punti di accesso, perché da ogni comune c'è l'accesso ai vostri dati, c'è in ogni articolazione delle agenzie delle entrate, c'è in ogni articolazione territoriale della Guardia di Finanza, di tutte le forze dell'ordine, della polizia giudiziaria. Lui si è battuto perché da 90.000 scendessero almeno poco più di 20.000 ai punti di accesso. Le password sono condivise, la tracciabilità è virtuale e sappiamo che cosa nascerà da questo: un mercato parallelo dei nostri dati, come è avvenuto puntualmente nelle indagini che le diverse procure hanno condotto sui sistemi delle security illegali, che attraverso ex colleghi delle forze dell'ordine che fanno questo mestiere ottenevano questi dati per ricostruire i vostri dossier e se li vendevano sul mercato. Tra le tante lettere che ricevo ogni giorno, ve ne leggo due rapidamente, poi vado immediatamente, saltando anche la parte europea, vado immediatamente da Castellucci. Allora, mi scrive un imprenditore, naturalmente io non faccio il nome, però si chiama Franco. Caro Giannino, sono arrivato alla conclusione come cittadino e come imprenditore che lo Stato è il mio nemico. Quale comportamento sarebbe allora legittimo assumere verso il proprio nemico? Al nemico al solito si fa guerra, ma come si fa a fare guerra al proprio Stato? Sono un cittadino anch'io e io sono cresciuto nell'idea che lo Stato sia l'idea del garante di un ordinamento, delle leggi, del rispetto delle regole. Però quello che mi tocca toccare con mano ogni giorno è tutt'altra cosa. Lo Stato mi chiede più soldi anche se pago tutto e di più, e forse il modo giusto di fargli la guerra è quello di mandare a casa 37 persone che lavorano con noi, far meno allo Stato così di una mezzo milionata di IRPEF, IMPS, IRAP e così via all'anno, quello in più fargli spendere al mio nemico 40.000 euro al mese di indennità di disoccupazione. Come faccio? E questo è l'interrogativo a cui questo Stato, con le sue pretese, oltre al giusto che noi gli paghiamo, oltre, sottolineo oltre, perché le richieste che ci sono arrivate con le cartelle esecutive sono oltre il giusto, io non so che dire, ma questa è la terribile, terribile, terribile domanda nella quale ci troviamo. Non è una provocazione, caro Giannino, ma una risoluzione che dopo l'ennesima porcata degli studi di settore immediatamente esecutivi abbiamo, io e i miei soci, deciso di prendere. Siamo degli, purtroppo c'è una parolaccia, frustrati o degli illuminati che hanno finalmente capito come si riesce a vivere meglio? Non lo so, io so solo che naturalmente 37 persone non voglio mandarle per strada. Questa è la lettera di Franco. Un'altra lettera. Giovanni, colgo per la prima volta l'occasione di scrivere. Sono un artigiano edile di 40 anni, alle dipendenze 8 persone, ancora per poco purtroppo, tutte con famiglia della provincia di Roma, e mi permetto di disturbarla perché con piacere e angoscia ascolto quando posso le vostre trasmissioni, eccetera, eccetera, complimenti. A fine mese partiamo purtroppo con la cassa integrazione, con la speranza e l'illusione che nei prossimi mesi succeda qualcosa di positivo, ma la certezza è che l'unica cosa che succederà sarà la chiusura dell'attività. Attività di seconda generazione ereditata da mio padre, che mi guarda non so se con occhi tristi per l'incapacità di suo figlio ad affrontare la situazione o con tristezza, avendomi lasciato un paese ridotto così. Sono deluso, sono amareggiato, sono incapace di prospettive, sono soprattutto preoccupato per il futuro di mio figlio e della sua generazione. Alle difficoltà degli ordini si aggiunge una richiesta dello Stato che in questi ultimi 2 anni è diventata terribile, come una morsa che si stringe intorno al collo della nostra piccola azienda. Non vi affliggo più. Non me la voglio prendere con il professor Monti, che tutti elogiano e che però con le ultime tasse ulteriormente aggiunge un giro di corda al nostro collo. Io ho sperato che ci fosse un'Italia in cui il professor Monti dicesse che i governi di prima avevano sbagliato. Io ho sperato che ci fosse il professor Monti che ricordasse a tutti che se la proporzione dei dipendenti pubblici negli anni 70 è aumentata del 30%, quando quei dipendenti privati in quel decennio aumentavano del 15%, e ancora negli anni 80 i dipendenti pubblici sono aumentati del 16%, mentre quelli del settore privato aumentavano solo del 4%, e tutto è sempre così continuato fino ai nostri giorni, io speravo che il professor Monti dicesse: ora basta, bisogna voltare pagina, non si cacciano i dipendenti pubblici, ma di spesa pubblica da tagliare per abbassare le tasse a chi produce e lavora ce n'è tanta. La saluto con stima, ma purtroppo noi dovremo chiudere. Ecco, lettere come queste a me fanno riflettere. Non credo affatto che siano di evasioni incalliti, non credo affatto che ci sia la resa incondizionata dell'imprenditoria italiana. Io la penso come Bortolussi, che qualche giorno fa ha detto, oltre a tutti i fondi, come sacrosanto di cui si parla al tavolo della Fornero, come sacrosanto, viva la Fornero, spero che faccia la sua riforma, distinguendo tra cassa integrazione e sussidi di disoccupazione, forse bisognerebbe pensare anche a un fondo, ha detto Bortolussi della CGIA di Mestre, un fondo a sostegno dei parenti e di coloro che sopravvivono agli oltre 50 imprenditori che in questo ultimo anno e mezzo si sono ammazzati per non licenziare la loro gente, per difendere la loro voglia di fare impresa. E purtroppo lo Stato, con le sue pretese, non dimagrendo mai e accrescendo sempre la spesa alle sue pretese, in questo ha una responsabilità. Non crediamo di essere incivili, crediamo di avere con noi le ragioni dell'Italia, che è quella che discende dall'Italia dei nostri padri, quella che si mise in piedi con orgoglio mentre era in ginocchio alla fine della Seconda Guerra Mondiale per tutti gli errori del paese. Ecco, io la penso un po' così, e se pensate che sia un po' meno drammatica questa impostazione, non vi rendete conto delle migliaia di sms che arrivano, di tanti che dicono che devono chiudere e che i posti di lavoro verranno in meno per via di questo Stato il cui mantra vi piace tanto e che invocate sempre come capace di porre chissà quale colpo a segno per i 200 miliardi che gli sfuggono. Sì, quando li avrà portati a segno saremo tutti sepolti, se la pressione fiscale asintoticamente arriverà al 100% di chi le tasse le paga, perché noi di quelli stiamo parlando, di quelli lì stiamo parlando. Perdonate, chiusura. E d'ora in poi sto zitto nella trasmissione, perché insieme a Giovanni Castellucci, l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia SPA, che saluto e ringrazio per essere con noi, buongiorno. Buongiorno a tutti. E con noi Bruno Dardani, che per fortuna mi sorreggerà, il direttore, il mio condirettore del mensile Cap Horn, che fa insieme a me. Noi ci occupiamo da anni, lo sapete, su Cap Horn, esattamente dei problemi dell'Italia poco infrastrutturata e di quanto sia complicato tenere in piedi le reti energetiche, quelle di trasporto autostradale, portuale, eccetera, eccetera. Quindi siamo specializzati in quello e lui è il mio coeroe in questa impresa. Buongiorno e grazie a Bruno Dardani. Grazie Oscar, buongiorno a tutti. Allora Castellucci, veniamo subito al punto. Tentiamo di dare una prima risposta all'editoriale del Corriere della Sera. Lei lo avrà letto, dice: ma l'impresa italiana dov'è? E io l'ho presentata come l'amministratore delegato di un gruppo che la politica aveva detto no a farlo crescere. Lui rimane in un settore che è un business regolato, quello delle autostrade, è fortissimo in Italia e cresce anche all'estero. Allora, come mai c'è gente che dice dall'Italia bisogna chiudere e c'è gente invece che resta? È solo perché è un business regolato e potete contare sulla tariffa? O in realtà, nell'esperienza comparata dei paesi in cui siete, lei ha delle ragioni per dire no, in Italia si può ancora restare a fare impresa, c'è un buon margine, anche se certo le regole dei paesi sono diverse e a volte quasi impossibili? Beh, lei pone una serie di problemi molto complessi e articolati. Penso di poter rispondere che noi pensiamo di fare le due cose, ovvero di voler poter rimanere in Italia perché, nonostante le difficoltà a operare in un paese così complesso, perché obiettivamente complesso è, e ci arriveremo dopo, noi pensiamo di poter dare a questo paese e poter ricevere anche da questo paese in termini di competenze, in termini di persone, risorse umane e anche rispetto. Però pensiamo anche che per essere credibili nel paese di origine bisogna dimostrare la credibilità e la propria capacità industriale anche a livello globale. E questo serve anche per poter attrarre capitali sui mercati internazionali. Noi in fondo, come essenza del nostro mestiere, recuperiamo risorse finanziarie sui mercati internazionali attraverso bond che vengono sottoscritti per minima parte da investitori italiani, e qui si aprirebbe, volendo, un'altra parentesi circa la maturità del settore finanziario, dei fondi pensione e dei grandi gruppi di gestione di patrimonio in Italia, praticamente assenti. quindi recuperiamo sui mercati internazionali per investirli in Italia. Questa è un po' la nostra missione. Per essere credibili in questo meccanismo di trasferimento e recuperare risorse sui mercati internazionali a costi competitivi, dobbiamo mostrare con fatti, non con proclami, la capacità di competere a livello globale. Ed è quello che cerchiamo di fare, devo dire, anche con soddisfazione. Successo si vedrà alla fine quando riporteremo a casa cash flow in maniera molto più sostanziale, però sicuramente con soddisfazioni, sia in America Latina, come lei diceva, sia ad esempio in Francia, dove il nostro gruppo è stato scelto come partner dal governo francese, paese notoriamente abbastanza chiuso all'imprenditoria internazionale, per portare avanti il più grande progetto di pedaggiamento per i mezzi pesanti sulle strade nazionali da circa 3 miliardi di euro. Contro tutti i competitor francesi, i grandi gruppi. Quindi, in sostanza, vogliamo essere in Italia, siamo felici e orgogliosi di essere in Italia, pur con le difficoltà, e per poter fare il nostro mestiere bene in Italia non possiamo non essere globali e non competere a livello globale. Il nostro obiettivo è diventare leader mondiale nel settore delle concessioni. Adesso siamo i numeri due. Pensiamo di poter diventare prima o poi il numero uno. Senta, negli ultimi anni gli cittadini e naturalmente gli automobilisti, chi lavora sulla strada nel purtroppo devastato settore della logistica e dei trasporti italiani, si era un po' abituata all'idea, negli ultimi 10 anni è stato così, che non dico tutti gli anni, ma quasi, un anno sì, un anno no, la politica cambiava idea sul contratto di concessione che aveva con voi come con tutti i concessionari, ma insomma voi siete quello più importante di tutti, dicendo no, i termini con cui lo Stato ha concesso l'utilizzo, la gestione e ha regolato gli investimenti e la remunerazione dei privati che gestiscono le concessioni autostradali non vanno bene, perché si è sbagliato qualche cosa, non si è consentito abbastanza controllo sugli investimenti da realizzare rispetto ai margini che vediamo con le tariffe, il meccanismo della tariffa premia troppo questo e troppo poco quello, riscriviamole per decreto, e questo è avvenuto un certo numero di volte successive. Devo dire, ovviamente, la politica su questo incassava ogni volta un certo consenso, perché l'impressione di molti italiani era che in questo tipo di business regolato ci fosse un po' di troppa ciccia per il privato, e questo è diventato un refrain di chi critica i privati concessionari. Allora, nel decreto liberalizzazione del governo Monti, questo settore è stato scritto da autorevoli testate, miei colleghi eccetera eccetera, si è un po' salvato perché l'autorità delle reti che nasce è di là da venire, ma in realtà a questo punto voi avete un meccanismo che per molti anni resta, perché lo Stato ha riconosciuto di aver un po' esagerato ogni volta ritirando la sua parola sul rispetto di un contratto che aveva sottoscritto. Vogliamo spiegare a chi è a casa e che non è esperto tecnico come davvero funziona, dopo tanti anni di ridiscussione, il meccanismo della tariffa e della remunerazione? Come avviene il controllo su quanto investite e quanto avete davvero investito? Ma c'è il controllo, e a chi si risponde in questo quando sia un privato che ha l'autostrada? Perché la gente pensa, mi arrivano i messaggi adesso, ma come, le autostrade sono iperammortizzate da tanti decenni, perché dobbiamo continuare a pagare e gli altri non pagano? Allora, cosa rispondiamo? Ma innanzitutto il governo recentemente col decreto liberalizzazioni, leggendo le dichiarazioni, più che riconoscere gli errori passati, ha preso atto di un elemento forse banale ma non scontato, ovvero che per essere attrattivi sui mercati internazionali, per poter attrarre investimenti di qualcuno che vuole credere nell'Italia, come primo elemento c'è la necessità di rispettare i contratti firmati da parte del paese. Quindi la sostanza è stata: contratti firmati non possono essere modificati se non vogliamo perdere la credibilità a livello internazionale e l'attrattività di quei capitali, per quei capitali che vorremmo attrarre. Quindi questo è l'elemento fondamentale, devo dire, che è ormai acquisito, non lo è stato in passato, e obiettivamente ogni volta che lo Stato cambia o riscrive o denuncia regole che ha sottoscritto o contratti che ha sottoscritto, la credibilità del Paese si riduce un pochettino, non solo nel settore, non solo per l'azienda, ma in generale. Come funziona il sistema di remunerazione dei concessionari e in particolare di Autostrade per l'Italia? Perché poi, per effetto delle varie stratificazioni successive per legge di vari contratti, qualche piccola differenza c'è. Parliamo di Autostrade per l'Italia, che è il più grande concessionario. Allora, le nostre tariffe aumentano tutti gli anni, il primo gennaio, sulla base di una formula che prevede l'incremento legato in parte all'inflazione, perché i nostri costi operativi aumentano con l'inflazione, ma non tutta l'inflazione, una quota dell'inflazione stessa, quindi il 70%. Quindi la formula impone a noi di fare efficienze ogni anno, e se non facciamo efficienze riduciamo la nostra generazione di cassa. Quindi c'è un legame all'inflazione, ma non totale, solo a parte dell'inflazione. Il 30% dell'inflazione, visto che noi siamo legati al 70% dell'inflazione, il 30% viene perso da parte nostra, quindi è l'obiettivo recupero produttività. In più c'è una quota legata alla remunerazione degli investimenti addizionali che nel corso degli anni lo Stato ci ha chiesto in più rispetto a quelli che erano gli impegni al momento della privatizzazione. Questi investimenti vengono verificati anno per anno, il 30 settembre dal controllore, ma verificati, diciamo, sulla base della contabilità dei singoli appalti, e danno luogo a una percentuale addizionale di incremento tariffe. Per dare un'idea, vuoto per pieno, per un euro di incremento tariffe si attivano circa 20 euro di investimenti, o detto diversamente, per ogni 100 euro di investimenti l'incremento di tariffe è 5 euro, quindi un effetto moltiplicatore sicuramente molto importante. Questo vale per gli investimenti addizionali a valle della privatizzazione, mentre invece tutti quegli investimenti che erano già inseriti nel contratto quando la società è stata privatizzata nel 2000 sono totalmente a nostro carico indipendentemente dal costo. Faccio un esempio: la variante di valico alla fine costerà circa il doppio di quello che era preventivato al momento della privatizzazione, tutto il maggior costo sarà a carico della società e non verrà trasferito in tariffa. Bene, ora abbiamo in pubblicità e poi ripartiamo automaticamente con una domanda di Bruno Dardani. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio. Beh, devo dire che il bilancio del tutto approssimativo dagli sms al 349-238-6666 della tirata di prima a favore del professor Pizzetti per me è abbastanza positivo, nel senso che qualche decina di pezzo di me, di Coglie, di ti denuncio, difensore degli evasori, qualche decina, insomma, che però sono più che abbondantemente compensati da molte decine in più di messaggi come questo, che scelgo perché serve a far riflettere che, ragazzi, non è come pensano tutti quelli che scattano in quarta e vogliono denunciarmi. Denunciatemi, che cosa volete che vi dica se pensate che io sto difendendo gli evasori? Questo ve lo ha infitto in testa lo Stato, esattamente, di gente come voi che si serve, felici di questa odiosa campagna di divisione. Perché alcuni mi dicono: tu che hai conto in Svizzera, mi scappa da ridere, e difendi quelli che ce l'hanno, che non siamo noi lavoratori dipendenti. Guardate, e la mia migliore risposta è quella di un imprenditore che ha scritto: sono un imprenditore di TV, ho un'azienda liquida. Naturalmente io vorrei crescere e dare ancora più lavoro a un maggior numero di dipendenti, ma per quale ragione dovrei e potrei investire se non posso fare gli ammortamenti anticipati, visto che lo Stato non me lo consente, visto che i leasing immobiliari durano 18 anni e visto che nel 2010 e 2011 tra ICI, IRAP e IRES ho dato e darò e continuerò naturalmente a dare allo Stato, in pieno assolvendo il mio dovere, tra il 64 e il 68% del reddito lordo che richiamiamo nella nostra impresa. Così noi non cresciamo, non mi lamento, io non sono di quelli che chiuderò, ma di sicuro occupazioni in più non ne posso creare, e di questo la responsabilità è delle leggi e delle imposizioni volute dallo Stato. Saluti, eccetera, eccetera. E questo è il punto, che non so quanto di voi sia chiaro: il freno all'impresa e all'occupazione posto da questo peso sulle spalle di chi le tasse le paga. E questo è il punto, ed è con questo che se l'è presa il professor garante della privacy Pizzetti ieri. Io personalmente lo ringrazio, perché per far crescere l'impresa ci vogliono imprenditori con i capitali, ci vuole una normativa che non premi furbi, ci vuole, nel settore di cui parliamo oggi, un equilibrio naturalmente tra il pubblico di cui si diventa concessionari e il fatto di essere capaci di investire, dare sicurezza, dare ritorni sul capitale senza ovviamente gravare troppo su prezzi e tariffe. Sì, ma il problema è che se non esiste il diritto elementare a poter far quadrare i conti per quello che lo Stato ti chiede e per come ha organizzato il sistema degli ammortamenti, è ovvio che poi a quel punto tu non puoi crescere, oppure se eri già in condizione di marginalità devi purtroppo chiudere. Questo è il punto. Allora, Bruno Dardani, una domanda, un paio di domande per Castellucci. Allora, premesso, una premessa doverosa. Il tuo intervento, Oscar, è stato eroico, come sempre, condiviso da me. No, dai, non facciamoci complimenti tra noi. Fratelli da tempo, ma è anche eroica la dichiarazione che il dottor Castellucci ha fatto di recente a un quotidiano nazionale. Dice: la nostra missione per aiutare il paese a superare i prossimi anni difficili e portare investitori internazionali in Italia. Eroica perché io credo che rispetto alla vicenda Abertis-Atlantia, vissuta sulla pelle dal gruppo Autostrade, la fuga, il grande esodo in atto di imprese internazionali dal settore energia in questo momento dovrebbe far scattare molti più allarmi di quanti scattarono ai tempi del governo Prodi. Questa è una premessa indispensabile perché per la domanda che vorrei porre al dottor Castellucci. In un recente dibattito pubblico in Bocconi, lei dottor Castellucci ha sottolineato insieme col professor Sen, un comune amico, il rischio enorme di questo paese derivante da un'assenza totale di politica industriale, che nel settore dei trasporti non è un'assenza, è una voragine di assenza di politica. Ha detto: si brucia solo paglia se si pensa di finanziare o di investire interventi in qualsiasi opera venga in mente a un comune, a un'amministrazione pubblica. Secondo lei quale può essere, perché questo ci interroghiamo da 20 anni fra piani della logistica, piani dei trasporti, nessuno che abbia prodotto risultati concreti, quale può essere la mossa che consenta una selettività degli investimenti e andare a investire su quello che produce reddito e valore aggiunto per il paese? Il senso di quello che dicevo in quell'intervento era le infrastrutture servono e aiutano l'economia non in quanto permettono di spendere a breve per costruire l'infrastruttura, quanto per il miglioramento, il beneficio che determina in termini di competitività nel medio e lungo termine. Ovvero l'infrastruttura serve se aiuta le imprese a produrre di più e in maniera più efficiente, se aiuta i turisti a venire più volentieri a spendere soldi in Italia. Ogni altro tipo di infrastruttura può determinare sicuramente un beneficio a breve, perché si girano i soldi, girano materiali, ma se non determina aumento di competitività è un fuoco di paglia, questo è quello che dicevo. Allora, qual è il problema in Italia? Il problema è che per poter spendere quelle poche decine di miliardi in infrastrutture e quindi per tenere in piedi un sistema anche economico, vista la estrema aleatorietà di tutti gli iter autorizzativi delle opere, chi ha fatto politica industriale in passato ha dovuto puntare sulla quantità di opere, ovvero mettere in priorità 200 opere, 300 opere, perché poi per effetto della mortalità di queste opere, degli iter autorizzativi di queste opere, magari una 10, 20, 30 arrivavano a buon fine e potevano essere fatte. Ed è evidente che se è aleatorio il processo autorizzativo, siamo costretti, il Paese è costretto ad avere tante opere in priorità. E questo è sbagliato, perché si corre il rischio, all'interno di questa grandissima numerosità, di fare degli interventi assolutamente scoordinati tra di loro e non necessariamente nel giusto ordine di priorità. Quindi io ritengo che sia necessario avere una lista di priorità estremamente più stretta, finalizzata a quelle opere che aiutano il turismo e che aiutano la produzione industriale, e su queste opere però migliorare la certezza dei processi autorizzativi. Allora, quello che succede recentemente e che è entrato, purtroppo non solo recentemente, ma è entrato anche nella cronaca nelle ultime settimane, è abbastanza illustrativo. Parlo della Val di Susa. Allora, non entro nel merito, ovvero sulla utilità o meno dell'opera, perché non ho abbastanza elementi, ma c'è un problema di metodo, ovvero di bilanciamento tra diritti di pochi, legittimi, ma diritti di pochi e interesse di tanti, che è un po' l'essenza della democrazia e della civiltà, del convivere civile. In Italia gli interessi dei tanti non sono abbastanza rappresentati come lo sono invece i diritti di pochi. Allora, e questo è il motivo per cui a Genova, città difficilissima per un'infrastruttura estremamente complessa come la Gronda, parliamo di 60 km di gallerie per raddoppiare l'autostrada, noi anche un po' coraggiosamente, questo è stato effettivamente un atto di coraggio, in Italia, in anticipo rispetto a tutti i disegni di legge che stanno venendo fuori adesso, 2 anni fa abbiamo attivato il dibattito pubblico, quindi abbiamo confrontato il progetto con le collettività e con le cittadinanze, e questo è stato un grandissimo risultato per noi. che è un po' il modello, adesso che Corrado Passera l'ha detto, quello del débat public francese, di voler introdurre per tentare di dare tempi certi sia alla consultazione dal basso che poi per la realizzazione delle opere, mettendo limiti anche alle impugnative amministrative. Noi siamo anche l'unico ordinamento che dà la tutela nei confronti a terzi a qualunque grado del procedimento, e quindi con tutti i blocchi che si realizzano, l'abbiamo detto in questi giorni. Volevo dirle però un'altra cosa emblematica: parliamo della variante di valico nel collo di bottiglia appenninico dell'autostrada del Sole. Ecco, in quel caso il problema non è come nella TAV, quello della opposizione per ragioni varie e diverse, chi per costi benefici, chi per mistica identitaria, ma insomma lì il problema è proprio di uno Stato che non riesce a farlo per decenni, a rispettare i tempi della variante di valico, o no? Beh, lì il primo progetto venne fatto nell'82, dopodiché fu inserito nella convenzione di autostrade nel 97 come obbligo di esecuzione, fino al 2001, quando entrai io in azienda, quindi ormai sono un veterano, ho fatti 10 anni, non c'era stato praticamente nulla, non era ancora autorizzata, anzi c'era un decreto del Ministero dell'Ambiente che avrebbe richiesto di ricambiare totalmente i tracciati, e ricordo che facemmo contro lo Stato, prima volta, un ricorso al TAR contro il decreto del Ministero dell'Ambiente per riuscire ad attivare finalmente la procedura autorizzativa, che si completò solo nel 2003. Devo dire, poi lì partì la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, gli appalti, le revisioni degli appalti, ed è stato, devo dire, un percorso abbastanza complicato, oneroso, come giustifica anche un'opera di quelle dimensioni, perché la variante di valico in termini di metri cubi scavati di gallerie è equivalente al traforo del Gottardo, richiederà 12 anni, quindi a volte diciamo è più realistico un programma di fare in 3 anni un qualcosa che magari in Svizzera uguali dimensioni viene fatto in 15 anni che non patologico in ritardo. Perfetto, adesso andiamo sull'informazione stradale, poi abbiamo le telefonate, prende Castellucci anche, l'avevamo interrotto con le telefonate, però qui della risposta 9 in punto. La versione di Oscar. Tornano i Doors. Attenzione che a fine settimana c'è la chiusura del sondaggio. Andate sul sito www.radio24.it. Andate, votate. Io non lo so, ma stanno vincendo i Doors. Mi dispiace, c'ho anche amici dalla Germania che mi dicono: guarda che da una parte ad alcuni italiani che ti sentono dici che tu parli troppo male dell'Italia. Mi dispiace, questa è l'impressione. Ma noi che abbiamo appreso l'Italia studiando in Italia, ma siamo tedeschi, non ci dispiace che ci sia qualcuno in Italia che dice: non tutto è risolto. Anche ieri Monti però con la Merkel ha detto che il peggio è alle spalle. Ma vedremo, speriamo naturalmente. Qualche telefonata rapida. Barbara da Roma, prego, una domanda a Castellucci. Buongiorno, la ringrazio per darmi voce. Allora, io sono un libero imprenditore, ho dovuto pagare nella fase di startup il 66% sul lordo e il 54% sul netto. Tutto dichiarato, tra l'altro, per cui io faccio la dichiarazione dei redditi ogni anno. Non riesco a pagare le tasse. Mi si dà anche dell'indegno, ma io credo che in realtà sia lo Stato indegno nei miei confronti, e penso che io ho un debito economico sicuramente con lo Stato, ma lo Stato ha un debito etico nei miei confronti e nei confronti di tutti quelli come me che sono dei bravi cittadini, ma che hanno pagato e lo Stato non ha assolutamente amministrato bene i nostri beni, ha permesso alla mafia di Barbara, la fermo soldi. Qua con un abbraccio, perché sennò poi dicono che ci mettiamo a fare i comizi. Io le sono solidale. Andrea da Macerata, la domanda a Castellucci. Buongiorno, solo una minuzia. Ho l'impressione dalla formazione della tariffa autostradale che non sia neanche ipoteticamente prevista la possibilità di una riduzione della tariffa. Ecco, buona domanda. Mi sembra molto strano in un periodo di crisi, recessione, eccetera, eccetera, che la formulazione della tariffa non possa anche andare giù. Non dico non esserci per niente come in Germania. Allora, Andrea, questo è un argomento classicamente ricorrente di chi dice: quando c'è un monopolio naturale, sia la concessione dal pubblico al privato, il prezzo continua a salire e quindi è una rendita di posizione. Per esempio, nelle telecomunicazioni, apertura alla concorrenza, non c'è un monopolio naturale, se non ovviamente le frequenze che uno si può comprare nelle aste e così via. Il problema è che i prezzi sono scesi, sono la componente di prezzo con più concorrenza, dove più scesa sia nel mobile, soprattutto un po' molto meno nel fisso, ma comunque sono scesi anche lì. Ancora una domanda, Luciano da Roma, per la D Castellucci di Autostrade per l'Italia. Luciano, prego. Buongiorno, senta, io sono un pendolare della A24 e praticamente vado a lavorare la sera e stacco la notte perché lavoro. Quindi la 24 che cos'è? Roma L'Aquila, no? Roma L'Aquila. E sono un'azienda stampatrice, insomma, sì. A Cazzoli. Ecco, questa è l'autostrada più cara d'Italia, ma per i pendolari che vanno a lavorare la notte, ma non si può fare uno sconto che sono obbligati per forza a andare con la macchina? Ottimo, ottimo, mezzo di ritorno. Altra questione, quella delle tariffe differenziate per segmento sociale produttivo. Allora, Castellucci, che dire? Ma sulla prima è una considerazione generale, posso solo dire che la tassazione del lavoro, sul lavoro, che sia la tassazione dell'impresa, che sia la tassazione del lavoratore dipendente, in Italia è tra le più alte al mondo e sicuramente c'è uno squilibrio, questo è quello che io ritengo, tra tassazione del lavoro rispetto a tassazione di altre forme, che sia la ricchezza, che siano i consumi. Fermo restando che l'ammontare complessivo di risorse che lo Stato deve recuperare fino a che non riduce i suoi costi, quello deve essere. Quindi sicuramente c'è uno squilibrio che non trovi in altri paesi nei quali noi operiamo. Circa le tariffe autostradali in momenti di crisi, devo dire che i nostri costi aumentano con l'inflazione e quando c'è crisi il traffico cala. Nei primi due mesi, l'ho dichiarato recentemente, il traffico è calato del 10%. Visto che noi vogliamo mantenere il livello di investimenti… 10% il 10% in due mesi è una cosa peggiore del 2008-2009 o sbaglio? No. Molto peggiore, ma in parte dovuto anche agli effetti della meteorologia, alle grandi nevicate, agli scioperi dei mezzi pesanti. Certo. Quindi la metà è strutturale, la metà è contingente di questo 10%. Ma siccome noi vogliamo mantenere il nostro piano di investimenti, non vogliamo rallentare gli investimenti perché pensiamo che questo sia il contributo che dobbiamo dare a questo paese, a questo punto è indispensabile che le regole tariffarie siano mantenute e i livelli di tariffe crescono in base a quelli che sono i contratti, altrimenti non saremo più in grado di mantenere i piani di investimenti di cui io ritengo questo paese ha bisogno. Le tariffe differenziate per segmento di clienti? Ultima domanda, purtroppo il problema è che quando si parla di tariffe differenziate ognuno vorrebbe differenziarle secondo quello che ritiene essere la sua visione del mondo e del suo lavoro. Gli unici casi di tariffe differenziate che esistono al mondo, nei paesi un po' più avanzati, prevedono tariffe più alte nei momenti di punta. Esatto. Ovvero laddove la capacità è scarsa ed ha diciamo più richiesta e anche però il servizio è peggiore, aumenta la tariffa per scoraggiare il pendolare o l'utente a prendere l'autostrada in quel momento. È quello che si chiama la congestion charge. Bene, il tempo è avaro. Io più che ringraziare Giovanni Castellucci, Bruno Dardani, non posso ringraziare tutti voi. Continuate a votare al sito www.radio24.it, continuate a sentirci in podcast e mi dispiace, io finché sto qui dirò no allo Stato ladro. Radio 24, la passione si sente.